Radio 24 presenta Il sabato del villaggio di Marta Cagnola. E ci siamo con il sabato pomeriggio di Radio 24, il sabato del villaggio. Anche oggi il villaggio è il nostro villaggio globale, questa è la nostra guida per orientarci negli acquisti mentali, in tutte le nuove tendenze in fatto di musica, TV, serie TV, cinema, ma anche consumi, tecnologia, libri, insomma i nostri liberi consigli per il fine settimana. Nella terza ora dalle 17 alle 18, anche oggi il nostro consueto appuntamento con RadioTube insieme a Daniele Bellasio per tutta l'attualità della rete e dalla rete. Ma scopriamo i temi di questa puntata della vigilia di Natale. L'appuntamento con il gastronauta, col gastronauta ci portiamo avanti e diamo tutti i consigli per l'ultimo dell'anno. Poi le tecnologie con Enrico Pagliarini, tutti i film in sala del weekend, ma non solo, perché partiamo con la TV. Polizie, ci sono reclami su certi farabutti che vanno in giro fingendo di essere ciechi e storpi. Ah, io vi aiuterei volentieri, ma ho perso la vista quando ho messo il piede su una mina in Vietnam nel 72, è stata un'esperienza terribile. Sei stato in Vietnam? Anche noi. Dove? Io stavo a San Ben, Din Don, Don Din, sono stato un po' dappertutto, in un sacco di posti, in un sacco di posti, in un sacco di posti. In quale unità eri? Stavo con i berretti verdi, squadre di unità speciali, comando tattico aerotrasportato specialistico, poi con l'unità di battaglione. Però era una cosa segreta, io ero l'agente arancio, io mi chiamavo in codice così, agente speciale arancio, mi chiamavo così. Aerotrasportato, eh? Io ci vedo, e ho anche le gambe, io, oddio, guardate, ho due gambe! Riesco a camminare, Gesù! Miracolo, Gesù! Oh, grazie, grazie, che bello! Non ci posso credere, grazie! Sono ridiventato normale, guardate, cammino! Io cammino, si è compiuto il miracolo! Chiamatemi Lazzaro! Sono guarito, Dio vi benedica! Siete stati stupendi tutti e due, tutti e due! Allora, è un rito, tutti gli anni bisogna ascoltare questa clip che è da una poltrona per due e come l'anno scorso, questa è la stessa clip che ha usato l'anno scorso, ci informiamo un po' su quello che andrà in onda a Natale in questi giorni, spero anche una poltrona per due, e lo facciamo con il direttore di Sorrisi e Canzoni, Aldo Vitali. Ciao direttore, auguri! Ciao, buonasera, buongiorno a tutti. So che anche per te una poltrona per due è un appuntamento natalizio, quindi... Beh, ma infatti, secondo me, tu potevi anche non telefonarmi, mettere la registrazione dell'anno scorso, in cui dicevamo che dopo una grande sommossa popolare, Italia 1, che aveva sospeso qualche anno fa la messa in onda di una poltrona per due, l'ha rimessa in palinsesto. Quindi quest'anno c'è, stasera 21:30 Italia 1, una poltrona per due. Vabbè, perfetto. Si sospendono i cenoni, si sospendono gli scambi di regali e si guarda una poltrona per due su Italia 1. Che poi è strano perché è natalizio per noi, ma non è che sia proprio un film rituale dappertutto, però per noi è una poltrona per due. È un Natale trasgressivo, perché insomma è una storia anche un po'... diciamo non amara, però certo un po' maliziosa, un po' velenosa, uno scambio di persone, due ricconi che vogliono dimostrare, scommettono un dollaro sul fatto che in realtà tutto dipende dall'educazione, quindi un povero e un ricco dipende da dove nascono, altrimenti sarebbero cafoni, certo, o super signori. Insomma, la storia la sapete, due grandi protagonisti, John Landis, un capolavoro assoluto. Quindi quello, allora, Natale è già salvo solo per quello. Poi cosa c'è da vedere in questi giorni? Allora, sempre stasera, ci segnalo due o tre cose di stasera sempre super classiche. Una serata circo su Rai 3, il circo di Monte Carlo, mentre invece se si vogliono mettere i bambini davanti al divano e divertirsi invece brindando tra adulti, c'è il Gobbo di Notre Dame della Disney su Rai 2, sempre prima serata. E poi invece segnalo una chicca per chi magari non fa il cenone o comunque vuole registrarsi una cosa bella: Ugo Gregoretti e Andrea Camilleri su Rai 5. Meraviglia. Fanno una meraviglia di programma, meraviglioso, dedicato ai cattivi di Pinocchio. Quindi, anche qui siamo... Ora, non lo so se è giusto segnalare queste cose per Natale. Ci metto subito una Panicucci che fa il concerto di Natale su Canale 5 con e tutti, quello fa subito già un po', dall'auditorium di Via della Conciliazione a 100 metri dal Vaticano, così come dire, bilanciamo la cattiveria. Però, santifichiamo, insomma, un po' Rigoretti, io non me li perderei. Perfetto, io tanto sto prendendo appunti, direttore. Ti faccio fare un po' la signorina buonasera, ma insomma io prendo appunti. Grazie per la signorina. Poi invece domani sera, Natale, quando siamo tutti un po' più, come dire, obesi, segnalo, vabbè, per il pomeriggio una bella dormita in senso buono, spaparanzati, che un po' si dorme, un po' si sta svegli, perché comunque lo conosciamo a memoria, Mary Poppins alle 16:50 su Rai 2. Perfetto. Quindi un grandioso, un super capolavorissimo. La sera su Rai 3 sempre la stessa concetto, mettiamo i bambini sul divano e noi adulti ci dedichiamo alle libagioni. C'è Christmas Carol con Jim Carrey, è la storia di Scrooge, tratta dal romanzo di Dickens. Vi ricordo che il personaggio di Scrooge, cioè il cattivo avarissimo, è quello che ispirò Walt Disney per creare Zio Paperone. Quindi, insomma, se vogliamo vedere da dove è nato Zio Paperone, che bello! Sì, poi, sì, invece, sì, per un Natale sempre, diciamo così, un po' diverso dal solito, segnalo due cose. Una, il concerto di Kylie Minogue su Sky 1 alle 21:25, bello, quindi bello. Lì c'è molto ballo, canto, sexy, mossette, eccetera, già per fare un ripassino pre-Capodanno. Ma la cosa che secondo me veramente è fantastica, è da tenere la televisione accesa dalle 11 del mattino fino a notte fonda, è che Iris, il canale Iris, dalle 11 del mattino parte con una maratona Hitchcock, con tutti i capolavori di Hitchcock, uno dietro l'altro, dagli Uccelli a Psycho a tutti i grandi film di Hitchcock. Quindi questa secondo me è un Natale veramente particolare. Bello, un bel brivido a Natale, bene bene. Chiudo con Santo Stefano. Uh-huh. A Santo Stefano segnalo, vabbè, sempre per il pomeriggio sonnecchiante, il classicissimo Sabrina con Katharine Hepburn. Oh, quello vero, il primo, bene. Quello vero, esatto, quello vero. Poi invece la sera su Paramount Channel io darei un'occhiata, ridarei una riocchiata a Ricomincio da tre, con Massimo Troisi, che insomma nel suo film più famoso e più bello. Per i bambini da mettere sul divano c'è Ralph Spaccatutto, che è una prima visione TV su Rai 3. Bello, i bambini con Ralph Spaccatutto, che così resistono poco sul divano, li metti come le bambole orizzontali, chiudono gli occhi, dormono, esatto. E però Ralph Spaccatutto lo possono guardare anche gli adulti. Sì, no, è meraviglioso, è sempre un Disney, è un classico Disney, quindi meraviglioso. Poi la settimana procederà abbastanza normale fino a Capodanno, perché quest'anno vigilia 24 è strano, 25, sì, sabato domenica non hanno dovuto, come dire, rivoluzionare i palinsesti. Poi lo faranno lo stesso perché gli piace cambiare i direttori di rete, quindi qualche sorpresa ci sarà sempre. Mentre veglione di Capodanno Rai 1 Amadeus, sperando che quest'anno non imbroglino sull'ora esatta. Ricordiamo che l'anno scorso per un 30 secondi ci fu un caso incredibile. Sì, e tra l'altro segnalo che quello di mezzanotte di Capodanno sarà l'ultimo segnale orario della RAI, perché con l'era del digitale c'erano delle discrasie tra i diversi orologi, e quindi nel dubbio se dare un'ora esatta, però magari sballata di 2-3 secondi, hanno deciso di abolirla. Questa è un po', e per tornare al discorso tuo che hai fatto prima, così come hanno abolito le signorine buonasera, hanno abolito adesso anche il segnale orario. Il Capodanno di Canale 5 invece è più interessante, secondo me, perché sarà in diretta quello di Canale 5, perché ti ricordi che per molti anni lo registravano? Tutti in diretta. Okay. Sì, si spera. No, ma sicuramente in diretta. No, sicuramente in diretta. Quello di Canale 5 è Gigi D'Alessio, come l'anno scorso, che ha avuto un grande successo, ma la cosa interessante è che è una serata che viene fatta a Civitanova Marche, quindi nelle zone limitrofe al terremoto dell'Italia centrale, che ha colpito, per intendersi, Amatrice e zone limitrofe. È un Capodanno, come si suol dire, solidale, perché ci sarà un numero per mandare degli SMS che verranno del valore di 2 euro che verranno devoluti alle popolazioni terremotate. Questa, se posso fare un commentino un po' acido, è una cosa che dovrebbe fare il servizio pubblico, invece lo fa la TV commerciale. E hai ragione, è vero. Questo, mentre la TV commerciale prende i soldi dalla località del Trentino che ospita il suo Capodanno con Amadeus, la TV commerciale invece va a raccogliere soldi per i terremotati. È un po' il mondo alla rovescia, ma quando è alla rovescia a me di solito piace un po' di più di quando è alla dritta. Allora, diciamo che perlomeno hanno una settimana di tempo per pensare di rimediare almeno sul fronte della solidarietà. Vabbè, esatto, che hanno appena fatto Telethon, però così in una settimana possono inventarsi qualcos'altro. È una cosa che poteva anche starci su tutte e due le reti, perché non è che se lo fa uno è vietato che lo faccia anche l'altro. Ci sono talmente tanti guai che ci sono tante persone da aiutare e si poteva fare comunque un Capodanno solidale, perché è bello festeggiare, per carità, siamo tutti pronti a festeggiare, però insomma c'è un mucchio di gente che nel 2016 ha sofferto e continua a soffrire molto, e dare una mano mentre si festeggia secondo me non è sbagliato. Sono molto molto d'accordo. Io posso approfittare della tua presenza, direttore, per chiederti qualcosa sulla TV di quest'anno? Io stavo sfogliando il numero di Sorrisi in edicola in questi giorni. Intanto però nel numero natalizio voi non avete scelto un personaggio della TV, se non prestato alla TV, in copertina c'è Renato Zero, non c'è un... Sì, perché gli altri si sarebbero offesi se ne avessi scelto uno? No, allora, abbiamo scelto Renato Zero perché è un Babbo Natale un po' alla Grinch, no? Quindi però è un Babbo Natale perché è una persona molto buona, trasgressiva ma buona, piace a tutti, è da tanto tempo che mancava dalla copertina di Sorrisi e noi ne abbiamo approfittato per metterlo, anche perché poi lanciamo così una grandissima operazione con dei DVD con tutta la sua storia in video, per cui ci saranno tutti i suoi travestimenti, costumi eccetera, e quindi ma nel prossimo numero, che sarà in edicola martedì, ci sarà, oltre naturalmente a tutto quello che succede in televisione, quindi avremo Gigi D'Alessio per esempio in copertina, te lo posso anticipare, ma ci sarà il risultato del sondaggio che noi tutti gli anni facciamo all'interno della redazione di Sorrisi e con non solo la redazione ma tutti coloro che collaborano a Sorrisi, anche da lontano, dalla tipografia al marketing, alla pubblicità, cioè tutti quelli che sono coinvolti nel mondo di Sorrisi, e il personaggio dell'anno secondo noi è Bob Dylan. Ah, ecco, ecco. È lui che ha vinto come personaggio dell'anno, e poi ci sono i vari premi, abbiamo premiato Tiziano Ferro come miglior album e via dicendo, Perfetti Sconosciuti come film eccetera. Ottima cosa, ti chiedo un'ultima notazione, perché sto appunto guardando i personaggi che avete messo in primo piano, c'è Carlo Conti ovviamente. Voi state già cominciando a scaldare i motori? Noi siamo più, i motori sono già quasi fusi, perché perché stiamo preparando la diciamo tradizionale, mi verrebbe da dire leggendaria, ma ora poi sembra... Lo dico io, leggendaria! Ecco, la copertina con tutti i 22, che poi sono 24 perché ci sono due in coppia, di tutti i 22 concorrenti, diciamo così, al Festival di Sanremo, che quest'anno, come si dice, della Pasqua viene basso, perché è subito il 7 aprile. Il 7 febbraio, quindi noi dobbiamo scattare questa mitica fotografia che comporta una... Vi lascio immaginare che tipo di organizzazione, per far arrivare tutti nello stesso posto, nello stesso giorno, alla stessa ora, dobbiamo scattarla almeno 20 giorni prima, 15-20 giorni prima, perché poi i cantanti cominciano a preparare l'ultima versione della canzone, Carlo Conti comincia a preparare i copioni per le serate, quindi noi siamo già... Abbiamo già il layout, abbiamo già disegnato la copertina, abbiamo già prenotato gli aerei per i cantanti che sono lontani. Uno è lontanissimo, Albano ci arriva addirittura dalla Germania, mi pare. E quindi noi siamo già in pieno Sanremo, stiamo cominciando a prendere i testi delle canzoni, perché anche quella è una prerogativa di Sorrisi, di fare leggere una settimana prima i testi delle canzoni. Quindi sì, Sanremo. Quindi Carlo siete Conti già in pieno lavoro, fantastico. Sì, posso fare una piccola anticipazione, che ora si arrabbierà Carlo perché me l'ha detta così, ma quest'anno verrà ricordato, e secondo me stragiustamente, il 50° anniversario della morte di Luigi Tenco, certo, che appunto avvenne tra l'altro a Sanremo. Tra l'altro c'è un altro anniversario di questo tipo quest'anno, che sono i 30 anni della morte di Claudio Villa. Di Claudio Villa, 1987, certo. non vorrei finire questo collegamento, diciamo, con questo aspetto un ma po' no, ma no, insomma, abbiamo ricordato due grandissimi personaggi e così ci hai dato anche una notizia così in anteprima, sono molto contenta. Poi la televisione ripartirà veramente con lo sprint subito dopo Capodanno, perché partono praticamente insieme C'è posta per te, Che Dio ci aiuti, la fiction, la nuova stagione della fiction con Elena Sofia Ricci, e Un passo dal cielo, la fiction che ha visto il grande successo di Terence Hill Tra i boschi del Trentino, che quest'anno invece ha come protagonista Daniele Liotti, quindi sarà tutta nuova. E partono tutte la stessa settimana, quindi fatti bagordi tutti davanti alla televisione. E poi grandi copertine, grandi non nel senso di giornali, ma coperte, plaid, divano e tisana per un po' di serate di relax, in famiglia o da soli davanti alla TV. Grazie al direttore di TV Sorrisi e Canzoni, Aldo Vitali. Nel 2017 ci vediamo. Direttore, mi vieni anche a trovare in radio una volta, me lo prometti? Io volentieri, sei tu che non mi inviti mai, perché io sarei sempre lì. Direttore, un bacio grandissimo, a presto. Ciao Marta, grazie. Ciao a tutti, a tutti quanti, e tanti auguri. Grazie al direttore di TV Sorrisi e Canzoni, una breve pausa e noi saremo ancora insieme tra pochissimo. Il sabato del villaggio. E dopo una scorpacciata di TV per le feste, facciamo una scorpacciata tout court, o perlomeno mangiamo bene, ci prepariamo per i prossimi festeggiamenti. Secondo me abbiamo un sacco di cose da organizzare anche per trattarci bene, quindi dobbiamo dare la linea al nostro gastronauta, ma lo introduciamo così. Gospel riporta sempre gli italiani al Capodanno. Non c'entra nulla con l'inizio dell'anno, ma veniva usato in una nota pubblicità di tanti tanti anni fa, e quindi per noi è subito la canzone del Brindisi. E io so che vuole già portarci avanti di qualche giorno, perché dobbiamo organizzarci, attrezzarci, appunto, il nostro gastronauta Davide Paolini. Ciao Davide. Ciao, ciao. Ma visto che hai messo questa canzone e hai messo questo gospel, inizio proprio a portarvi così come posso dire, alla scoperta dei posti dove si mangia bene e si spende il giusto la notte di Capodanno. E sai dove vi porto? Dove ci porti? Vi porto al Blue Note anche. Ah, beh, quindi siamo in topic, come sì, si dice. Mi è venuto proprio in mente, perché c'è il cenone di Capodanno appunto al Blue Note, e ci sono gli Angels in Harlem, quindi gospel, e quindi sicuramente chi va, c'è una cena, c'è un cenone, devo dire che dei piatti anche abbastanza interessanti, e anche dei vini altrettanto intriganti, che vanno bene per l'ultimo dell'anno, e costa 200 euro il tutto, quindi il tutto fra spettacolo, appunto concerto, più un menù che è molto ricco, perché ci sono qualcosa come 10 piatti, quindi 10 servizi con diversi vini, quindi credo che possa essere anche una soluzione per gli amanti della musica e per gli amanti del gospel. Dunque io ho cercato un po' qua e là in Italia, anche per dare così delle informazioni che siano anche a portata di portafoglio. Certo. No, non sono andato alla ricerca degli stellati, perché ho visto che a Roma c'è uno stellato che costa 1300 euro. Oh, accidenti! A Modena c'è un super stellato che costa 500 euro, vini esclusi. Mm-hmm. Quindi, insomma, devo dire che è per pochi. Allora invece io voglio andare per tutti. Mi scusino buona parte degli italiani, per una parte degli italiani che si può permettere, ad esempio, dai 70 ai 150 euro. Sì, che devo dire che per una cena dell'ultimo dell'anno è ragionevolissimo, perché allora, si spende altrettanto in locali in cui si mangia male. Appunto, e quindi, ecco. Io invece vi porto i locali dove si mangia veramente bene, e cominciamo da un locale a Isola Dovarese. Isola Dovarese è tra Mantova e Cremona, qui c'è un locale storico che si chiama La Crepa, dove è noto, notissimo per la propria cucina, molto legata al territorio, anche per una scelta di vino. Ebbene, qui c'è un pranzo, c'è una cena del 31 dicembre, niente male, perché si inizia col culatello, poi si va su piatti locali, il crudo del lago, quindi pesce di lago. Poi c'è un primo che sono i rotoli del Po con luce e carciofi. Poi c'è un secondo che devo dire, ecco, questo può piacere o non può piacere, però poi c'è una sostituzione. C'è una lepre reale con fondo al cioccolato, però in sostituzione ci può essere il cotechino cremonese con le lenticchie della fortuna. Ecco, torniamo. Tra l'altro diciamolo che noi ci ritroveremo con gli ascoltatori per aspettare il brindisi dell'ultimo dell'anno, quindi dalle 23 in poi, e preparati anche un po' di, così, di indicazioni del genere sulla fortuna. Vogliamo sapere un po' di cibi che ci portano fortuna. Sì, i cibi della superstizione, ma ci sono anche qui ciò che è da evitare, perché ci sono alcuni cibi che sono da evitare perché non portano fortuna. Poi quello lo vedremo. Lo vedremo all'ultimo dell'anno, allora. Qui si chiude alla crepa con la zuppa inglese, che io amo la follia, non trovo mai. Pensa, quasi andrei in questo locale solo per mangiare la zuppa inglese, che non trovo più in giro per l'Italia. Comunque ora diciamo che facciamo un salto dal cremonese mantovano. Andiamo ad Alassio. Andiamo ad Alassio, ecco, qui per chi ama il verde, per chi ama i giardini. Questo ristorante ha un giardino di 22.000 metri, si chiama 9 e il costo è 90 euro. Diciamo, in cucina c'è Giorgio Servetto, è uno chef diciamo giovane, è molto sintetico. E io amo la sintesi e non dei menù sproloquianti con 30.000 cose, con riferimenti culturali ed altro. Nasello, cavolo, caviale. Sai, mi piacciono così. Quando non vanno a capo le descrizioni. Ecco. Le descrizioni non devono andare a capo, sono d'accordo. E poi sappiamo cosa mangiamo. Non è trionfo di primavera su un letto di... No, perfetto. Coniglio, rape, tartufo. Arance e finocchio, quindi è come posso dire parco, ma veramente straordinario poi nei sapori e nei profumi. Ecco, devo dire che questo è un relè, un bellissimo relè, quindi qui si piacevolmente si può passare veramente una grande serata. Poi ora andiamo nelle vicinanze di Parma, dove c'è anche qui una cucina come posso dire molto legata al territorio, e andiamo anche qui in un posto che io ritengo molto bello. È un borghetto, un borgo che è stato riportato diciamo alla luce, proprio ricostruito in maniera molto intelligente dalla famiglia Spigaroli. Si chiama Antica Corte Pallavicina, a Polesine Parmense. E questo posto è famoso perché il produttore, diciamo che il guru dei culatelli, è un po' riconosciuto appunto per aver rilanciato tutta quella zona in riva al Po, e quindi si mangiano delle cose anche qui che sono molto molto legate a tutti i prodotti vicini a questa, diciamo, all'area del Po, per cui si può mangiare i cannelloncini al ragù di pernice su un burro fuso di Neviano degli Arduini. Ecco, qui sono catalogati proprio ad uno i prodotti da dove arrivano e il produttore. Perfetto. Questo è importantissimo. E l'uovo a guscio bianco su vellutata di patate, una granita di strogo e anice, mandorle e caffè proprio per intermezzo, prima di mangiare il bue bianco rosato sul royal di spinaci. E poi c'è il classico torrone, il panettone. Ecco, devo dire che qui sono compresi i vini, ogni portata ha dei vini di grande pregio, e quindi il prezzo cresce, perché tutto compreso costa 170 euro a persona. Poi continuiamo il nostro giro d'Italia. Spostiamoci un po' verso il sud a questo punto. Andiamo al sud e andiamo a Ragusa. Andiamo da un famosissimo chef che si chiama Ciccio Sultano, e diciamo che il menù costa 170 euro. Però ecco, qui siamo un po' più sul caro, siamo su un bistellato, però volevo cercare un po' in giro per l'Italia. E quindi qui andiamo su prodotti molto particolari che riguardano ovviamente pesce, gambero rosso al tartufo, spaghetto con panna acida, caviale e vongole crude, l'insalata di polipo, il rotolino di pasta al pesce, pesce in crosta, crema soffice di mandorla, costoletta di maialino. Insomma, qui diciamo che il menù costa, però devo dire che i piatti, non so come si fa a mangiare tutto l'ultimo dell'anno, magari bisognerebbe lasciarlo anche per l'anno dopo. Poi andiamo a Venezia, ora andiamo a Venezia, da pochi mesi, credo da un mese solo, è stato aperto in un luogo, in un palazzo molto, molto bello di Venezia, appena appunto rilanciato, che è stato curato dal design Philip Stark, e hanno aperto un ristorante nuovo che si chiama Amo, i fratelli Alaimo, i fratelli Alaimo che sono nati per, noti per le calandre. Ebbene, anche qui c'è un menù lunghissimo, sempre con vini inclusi, e qui andiamo a 200 euro, però credetemi, questo menù si arriva il giorno dopo, perché probabilmente è talmente lungo. Al limite, Davide, noi senza vergogna chiediamo una doggy bag, il pacchettino da portare fine, a casa. Alla fine invece del cotechino, qui si mangia il cappuccino di cotechino e lenticchie, quindi è già tutto pronto, non si fa neppure molta fatica, è già tutto già preparato. Andiamo a Palermo. Concludiamo con Palermo allora, Davide. Andiamo all'osteria Ballarò, ecco, qui ce la caviamo con 120 euro. Allora, qui abbiamo anche un menù molto, molto legato alla Sicilia, per cui si passa da una lasagna di baccalà a un risotto con straccetti di astice dei nostri mari, papillon di pasta fresca, mousse al limone, trancio di salmone fresco, insomma, anche qui diciamo, è veramente una cosa golosa. Però dico, c'è anche un menù a Milano, ecco, questa è una cosa che potrebbe interessare, perché c'è un menù a Milano, insomma, Milano si sa che è una città molto costosa, e 120 euro, e andiamo al bistrò della Langosteria, posto molto piacevole, a me piace molto questo posto, e anche qui si passa dalle ostriche ai gamberi, al baccalà. Appunto c'è l'aperitivo con tantissime cose, tartare di scampi, cappesante, ravioli di denti, c'è aragosta matta e via di seguito. Ecco, tutti questi locali, Marta, pensa un po', mettono molti l'aragosta e non sanno che veramente l'aragosta, poi riveleremo un segreto sull'aragosta l'ultimo dell'anno. Sì, non lo diciamo ancora, dai. La prossima trasmissione. Non lo faccio, non lo diciamo ancora. Diamo l'appuntamento il 31. Beh, ovviamente ci sono tutti i meglio di del sabato del villaggio nei prossimi due sabati, quindi comunque vi teniamo compagnia. E poi il 31 sera ci saremo io e Davide Paolini per un sacco di chicche sull'ultimo dell'anno. Vi accompagneremo al Brindisi. Grazie Davide e buon Natale. Buon Natale. Passa a te, un buon Natale. Natale a tutti. Grazie a Davide Paolini, noi ci ritroviamo tra poco dopo una brevissima pausa. Il sabato del villaggio. I'm running home for Christmas. I can't wait to see those faces. I'm running home for Christmas, yeah. Well, I'm moving down that line, yeah. And it's been so long that I wanna be there. I sing this song to pass the time away, driving in my car, driving home for Christmas. Chissà in quanti stanno guidando per tornare a casa proprio per la sera della vigilia di Natale, driving home for Christmas, quindi per Natale. In tanti ci stanno ascoltando magari mentre viaggiano verso le località o di vacanza o appunto verso la località da cui provengono, verso casa. Chissà Enrico Pagliarini quando torna a casa per festeggiare Natale. Intanto in questa vigilia di Natale ci sta tenendo compagnia al sabato del villaggio. Buon pomeriggio e buon Natale, Enrico. Buon Natale a tutti, molto molto americana questa canzone. L'ho scelta anche per questo, so che a te piace questa atmosfera, anche un po', sei rocchettaro ma anche un po' funky, ti può andare bene. Sì, io non ho un genere musicale preferito, allora diciamo che se dovessi fare una radio domattina farei una radio di jazz. Questo lo sappiamo, che jazz il sogno, radio. Che noi prendiamo in giro Enrico Pagliarini bonariamente per le sue due creazioni che non ha ancora realizzato nella vita, che sono la radio e la compagnia aerea. Sono cose virtuali. Sì, sì, ogni tanto lo prendiamo in giro. Senti, ma qual era il primo volo che volevi fare nella tua compagnia aerea? No, si può dire, svegliamo segreti industriali che non si possono dire. Però diciamo che partiva da una località dell'Emilia. Sì, sì, sì, cioè, dobbiamo però fare anche l'aeroporto. Esatto. Certo, quindi manca tutto. Quindi avete capito perché non abbiamo ancora realizzato tutto, no. Tutta l'impresa. Diventa un po' di Enrico problema, Pagliarini. Sì, sì. Sicuramente la radio inizia dalla notte. Okay. Potrebbe essere una radio notturna. Certo, così fantastico. Come una volta c'erano alcune radio private, alcune radio pirata, tra il pirata e il privato, che funzionavano solo di notte. Quindi perché erano degli hobby e quindi uno dopo il lavoro andava, accendeva e faceva. Io penso di aver lavorato nella primissima radio, una radio che era in una soffitta di notte. Di notte, fantastico. Sì, funzionava solo di notte. Sì, sì, funzionava solo di notte. Cioè, tipo, partiva alle 7 di sera e finiva all'una, alle 2 di notte. Una cosa mi piace moltissimo. Enrico, allora, al di là di queste di questi sogni un po' divertenti, noi siamo dei giocherelloni in redazione. Sono dei soldi da investire. Io faccio il business plan, però cerchiamo finanziatori. Allora, scherzi a parte, che cosa ci hai preparato per questa vigilia di Natale? Dunque, una delle cose che faccio più spesso, o meglio, tento di fare più spesso durante le vacanze sono le, chiamiamole pulizie, in realtà non solo pulizie, però cerco di mettere un po' d'ordine. A partire dalla scrivania qui in redazione. Anch'io lo faccio sempre, infatti sono ancora al lavoro domani mattina e la mattina del 26, infatti gli ascoltatori mi ascolteranno. Siamo in turno io e Valeria De Rosa, quindi facciamo un po' di giornali radio io, un po' di giornali radio lei. E sistemo la casella email, che sì, è così, certo. E poi l'ordine sulla scrivania. La mia e la tua sono ordinatissime. Sì, però già per i miei standard la mia è un anche po', la mia deve essere messa a posto. Sì, sì, sì, sì. Invece allora, stiamo sempre raccontando retroscena. Non sono tutte ordinate le scrivanie dei nostri colleghi. Non sono nemmeno paperless. pensa che negli anni 90... Io che leggo alcune riviste che parlano solo di radio o di studi di registrazione, cose strane, negli anni 90 c'era il mito del paperless studio, tradotto studio radiofonico, perché su queste riviste si occupano di radio e di tecnologia radiofonica, e c'era il mito degli studi senza carta, perché si stava passando da una programmazione radiofonica analogica a studi fatti solo di computer, di mixer digitali, c'erano ancora le bobine e i vinili e si stava passando ai CD, diciamo i CD c'erano già negli anni 90, però insomma si stava passando a tutto digitale. E uno dei miti era appunto togliere tutta la carta, perché la programmazione di palinsesti eccetera era tutta fatta su carta. E a volte ripenso a quello che scrivevano questi negli anni 90, invece mi giro, vedo altre scrivanie dei non nostri facciamo colleghi. Nomi, ma c'è qualcuno che adora la carta. Ah sì sì, non c'è dubbio. Allora, pulizie. A proposito di pulizie, una cosa che si potrebbe fare e anzi è fortemente consigliata è fare pulizia all'interno del nostro smartphone. E più che pulizia, torno a ripetere la parola, fare ordine, mettere tutto in ordine. Allora, devi sapere che un paio di anni fa, tre anni fa, nel 2013, e poi non mi pare che nessun altro abbia fatto una ricerca di questo genere, due ricercatori tedeschi hanno osservato alcune centinaia di smartphone e consumatori per capire con quale ordine tenevano le applicazioni. Okay. E hanno scoperto che ci sono 5 gruppi di consumatori. Ah, vediamo a quale tra apparteniamo. I più ordinati, esatto. Tra i più, poi io ho la mia idea. Tra i più ordinati e i più disordinati. Allora, icone organizzate in base alla frequenza d'uso. Cioè quelle che io uso più spesso le tengo nella prima pagina, diciamo nella home page dello smartphone. No, non sono io. Perfetto. Allora, icone, qui comunque c'è già una intenzione, cioè uno non è che si accontenta di come le app arrivano dopo che le scarichi oppure come, in base a come quando compri lo smartphone. Dunque, icone organizzate in base alla comodità con cui le raggiungo sullo schermo. Cioè non solo mettono, che un po' si lega alla prima, però non solo mettono le più frequenti, cioè le più utilizzate nella home page, ma mettono, magari se tu usi la mano destra. No, io sono mancina. Ecco, quindi tu metterai in basso a sinistra, quelle che, perché così le raggiungi più facilmente col pollice. O in basso a destra, perché è il più lontano. Vabbè, insomma. Sì, dipende, se, insomma, se siete se, più se. Comodo, quindi... Non sono neanche qui. Icone organizzate in gruppi o cartelle, ok? In base all'argomento o alla funzione. Sto facendo di sì con la testa. Eccolo. Sono lì. Io. Tipo, io ho naturalmente la cartella aerei, dove ho tutte le applicazioni che servono per sapere. Allora, ti leggo le mie, orari. Puoi sapere le mie? Sì, sì. Beh. Allora, sul telefonino sono social, giochi, utilities, giochi poi sono due, utilities, stile di vita, fotografia. Ok, basta. Basta. Io invece sul tablet sono di più. Sul tablet, adesso ti dico che categorie ho. Allora, apriamo il desktop. Libri, scrittura, musica, social, fotografia, utility, TV, giochi, relax, viaggio, cucina, stile di vita, lingue. Perché c'ho i corsi di lingue, c'ho il corso di tedesco sul tablet. No, io ne ho un po' meno forse. Comunque ho salute, che però non è che utilizzo tantissimo. Poi ho viaggio e quella aerei, che potrebbero far parte del viaggio. Io ce l'ho tutti in viaggi, sì. Meteo e mappe, città. Ad esempio, io ce l'ho tutto in viaggi. Ad esempio, le applicazioni per i taxi, per il bike sharing, per il car sharing, oppure l'applicazione dell'ATM, che è l'azienda dei trasporti pubblica di Milano, che è fatta bene perché, insomma, tu sai quando arriva l'autobus, ad esempio, e questa ce l'ho nella città. Io invece le ho tutte in viaggi e uso l'app che mi hai consigliato tu, che è Moovit, perché così ho sia Milano che Roma, che sono le due città che frequento di più. Ce n'è un'altra fatta molto bene, che è City Mapper, che è sempre simile. Poi ho audio, che come io ho musica, ma è uguale, musica, esatto. Ho dentro anche le radio. Poi ho video, finanza, notizie, e-commerce, cibo. Perché io invece e-commerce ce l'ho in stile di vita. Allora, e qui siamo, quindi noi facciamo parte di questa categoria, cioè quelli che hanno organizzato in gruppi o cartelle, cioè che fanno le stesse cose. Chissà, Gianni, in regia, tu come le organizzate? Anche tu in gruppi? Ah, siamo tutti bravi, ordinati. Poi, senti questa, questi ricercatori hanno scoperto che ci sono gruppi di persone che organizzano le applicazioni secondo motivi estetici. La mia amica Gabriella le ha organizzate per colore. Bravissima. Ha un telefonino bellissimo. Io non ci pensavo. Ha la cartella delle app rosse, gialle. Le cartelle delle app gialle. E io dico, la prima volta le ho detto, scusa, ma non è un po' scomodo? E lei mi ha risposto, ma no, perché ad esempio lo sai che Netflix è rossa e quindi tu vai nelle app rosse. Fantastico. Vabbè, comunque, però è bellissimo il telefonino con le app per colore, Secondo lei è anche comodo. No, ma infatti può essere. Io non avevo pensato, prima di leggere questa ricerca, non avevo pensato a questa possibilità. Io prima di vedere il telefonino della mia amica Gabriella. Dunque, però questi ricercatori fanno degli esempi e dicono, ad esempio, persone che nella home page magari hanno la fotografia di un parente, della figlia, della fidanzata, eccetera, eccetera, e dicono, sulla home page hanno messo pochissime applicazioni. Verissimo. Perché vogliono vedere la foto. Tu cos'hai sulla home page? No, io ho una foto di una barca su un lago, ma per io puro schermo caso, nero, cioè. Schermo nero, sia sul telefonino che sul tablet. Ah, vabbè. Perché però così, io non me ne frego, ma anche cioè, sul non desktop del computer, schermo nero, perché così vedo subito le icone e le app. Sul computer io ho solo degli elicotteri e degli aeroplani. È vero, quindi... è vero. Allora, poi ci sono, l'ultima categoria è secondo altro ordine, quindi vario, ad esempio ordine alfabetico, perché se uno va nelle impostazioni dello smartphone, può dire che può essere una scelta. No? Certo. Oppure nessun ordine. E ci sono parecchie persone che se ne fregano dell'ordine, perché magari hanno poche applicazioni e dicono, vabbè perché devo metterle lì, in ordine? Sì, sì. No? E quindi quando scaricano una nuova applicazione, dove finisce, non è che la vanno a mettere e nel tanto posto. Tanto se sono poche, quello è vero. Però ecco, sul poco o molto, allora il mio consiglio è di provare, a proposito dell'organizzazione, è quello di metterle a gruppi e di farle le cartelle pensate per uso, per funzione. Però quella del colore effettivamente bisogna fare una prova. Mi è piaciuta. Bella. Ecco, il mio consiglio è cercare nuove applicazioni, provare nuove applicazioni, però sempre nella logica di fare le pulizie e mettere le cose in ordine, andare a vedere le applicazioni che non utilizziamo mai, perché ci sono applicazioni, ci sono anche degli studi che dicono che il numero di applicazioni che usiamo frequentemente è abbastanza limitato a pochissime e non vanno oltre alle poche decine. Ecco, se uno non usa mai un'applicazione, io consiglio francamente di disinstallarla. E uno a questo punto potrebbe domandarsi: ma per quale motivo l'applicazione sta lì, non fa niente? Allora, che stia lì e non fa niente, ne ragioniamo. Magari si aggiorna, occupa del... Sì, poi ci sono anche delle applicazioni, magari noi non ce ne siamo accorti, ma quando l'abbiamo installata l'applicazione ci dice permetti a questa applicazione di geolocalizzarti sempre... E quindi mi cerchi in ogni istante. E quindi non è detto che tutte le applicazioni siano sempre lì silenti, ma il motivo principale è che, l'abbiamo detto varie volte, bisognerebbe tenere aggiornato il proprio smartphone, cioè aggiornato proprio il sistema operativo, ma anche le applicazioni aggiornate, per motivi prevalentemente di sicurezza, ma non solo, anche di funzionalità. Le applicazioni aggiornate e io lo ripeto, pensando anche a molte persone che incontro che vedo che da mesi non aggiornano le applicazioni, cosa incredibile per me, però purtroppo io l'unica cosa che mi ricordo che ho fatto subito è impedire alle applicazioni di aggiornarsi se non sotto wifi. Sì, può essere, perché un'idea, sennò certo. mi consuma, ecco, infatti, la soglia. Se uno ha molte applicazioni e non disinstalla, non toglie dallo smartphone le applicazioni che non utilizza mai, magari non ha messo questa impostazione e quando deve aggiornare consuma dati in maniera inutile, perché devi aggiornare una cosa che è da un anno che non usi. Sono d'accordo, guarda, sono molto molto molto saggia. Allora facciamo una brevissima pausa e poi ci ritroviamo ancora dopo il traffico. Il sabato del villaggio. E ci ritroviamo dopo la viabilità per l'ultimo spicchietto di questo blocco con Enrico Pagliarini, poi parleremo di cinema. Enrico, allora, stiamo mettendo ordine, abbiamo messo ordine nelle app del telefonino, ma c'è ancora qualcosa possiamo mettere ordine in questi giorni di relax? Sicuramente cancellare un sacco di cose che non utilizziamo, non solo come app, ma contenuti delle app. Se noi abbiamo un'app per fare fotografie, andiamo nella cartella delle fotografie e magari ci accorgiamo che ci sono un sacco di foto che non sono né particolarmente belle né particolarmente significative. Liberiamo spazio, visto che lo spazio negli smartphone non è mai troppo. Ma questo vale un po' per tutti i documenti, non solo per le fotografie, anche per altri tipi di documenti. Ad esempio, noi che registriamo contenuti audio, a volte io mi accorgo di avere contenuti audio che non servono più a nulla e occupano un sacco di spazio, quindi bellissimo. cancellare, soprattutto poi se queste cose le abbiamo impostate con il backup automatico online, perché se io ho un sacco di contenuti, foto, altro tipo, ad esempio video consumano un sacco di spazio, pensate che se poi noi facciamo il salvataggio automatico negli archivi online, questo occupa spazio anche online e soprattutto crea traffico. Certo. Quindi perché salvare cose inutili? Ok, io il backup ce l'ho su tutte le foto, ogni tanto svuoto il telefonino, tanto ho il backup, certo. Quindi ci sono. Sì, perfetto. Sì. Però devi fare l'impostazione tale per cui... Non è che mi svuoto anche di là. Ecco, esatto. Vero. Perché se no tu sì, cancelli da qua e ti cancella anche di là. Invece confermo. Devi dire che sì. Cancelli di qua ma dall'altra parte vuoi che ti tenga sì. I dati. Alcuni potrebbero dire non ho capito cosa però è un'impostazione dello smartphone, cioè su tutti gli smartphone basta andare a smanettare un po' sulle impostazioni. Un'ultima cosa che volevo dire a proposito di, in questo caso veramente di pulizie, allora dovete sapere che lo smartphone, ahimè, è uno degli oggetti più sporchi che noi utilizziamo. Ci sono vari studi che dimostrano che è un luogo dove si annidano nulla di particolarmente grave, però una buona abitudine è quella ogni tanto di pulire lo smartphone. Però sarebbe una buona abitudine non sporcarlo proprio. Devo dirti che però noi signore col fondotinta un po' lo sporchiamo. Poi sì, poi c'è gente che lo appoggia in ogni dove, anche ci sono persone che nei luoghi di lavoro lo utilizzano giustamente, quindi il telefono si sporca. Allora, sulle istruzioni c'è scritto, è vero che in alcuni casi i manuali non ci sono più nella scatola, ma online ci sono i manuali d'uso e i manuali dicono sempre come si deve pulire, cioè non utilizzare dei prodotti abrasivi, ma tendenzialmente utilizzare un panno umido. Perfetto. Molto semplicemente, strofinando un po', è una buona abitudine magari nei nei pomeriggi di queste vacanze. Dico pomeriggi di queste vacanze perché tu hai già detto che lavori, io anch'io lavoro non esattamente il giorno di Natale, domani no, però in questo periodo lavorerò, e questi giorni quando ho sentito gente che dice ci rivediamo il 9 di gennaio, ho detto, questo è un mondo che non mi appartiene, non capisco cosa significa rivedersi il 9 di gennaio. Vabbè, noi passeremo un po' però, di vacanze qua, faremo le vacanze in radio, beh, insomma, quindi un po' c'è lavoriamo gente che ha un sacco un po di tempo, eh? Ma ci riposeremo anche, ma ci riposeremo anche, le abbiamo meritate anche noi. Sì, sì. Grazie noi Enrico. Noi ci divertiamo molto di più di quelli che ci si tornano il 9 di gennaio. Poco ma non c'è sicuro, dubbio, poco dubbio. Ma sicuro. Grazie Enrico e buon Natale. Ciao, buon Natale anche a voi. Maestro, secondo lei io sono pronta per un concerto? Espanda il diaframma, Florence. È straordinaria, non trova? Sì, ma a volte è stonata. Stonata? Sfida le leggi della fisica. La prego, mia moglie è malata. Cantare è il suo sogno e io glielo regalerò. La musica è una cosa seria, bisogna rispettarla. Ha fatto più lei per la vita musicale di questa città di chiunque, incluso te. Sa che Florence non ce la farebbe senza di noi. Suoni per la sua amica. La malattia sta regredendo. Qual è il suo segreto? La musica. Lei vive per la musica. Ci sono 3.000 persone, vogliono gioia, vogliono musica. Ma io ho paura. Madame Florence deve entrare in scena. Sta andando molto, molto, molto bene. Brava Florence! Viviamo una vita intera per questo momento. E già dal trailer questo film, insomma, ci fa capire che è un film che potrà divertirci molto, ma non solo. Beh, ho già detto un po' cosa penso di questo film molto atteso che avevamo già visto al Festival del Cinema di Roma, ve ne avevamo già parlato, ma finalmente esce. Grande, grandissima Meryl Streep. Chiediamo cosa ne pensa però il nostro super esperto Franco D'Assisti. Ciao Franco. Ciao, ciao Marta. Sì, assolutamente un film, come dire, che fa quello che dici tu, cioè diverte e fa anche l'altro, cioè, sì, non solo, cioè diciamo. Il non solo, mantiene quella promessa, perché ci sono dei momenti che sono acuminati come tutte le verità, che ti entrano veramente nel cuore, nell'ambito di un film che è tutto giocato sulla leggiadria, su questo non detto di finto amore, forse che però in realtà è vero amore, fra un marito ancor bello, ancor piacente, ancor seduttore, e una moglie più anziana, con una passione smodata per la musica e soprattutto con una convinzione, quella di saper cantare, cosa che invece non è palesemente vera. Però non è un film su guarda questa com'era imbranata, invece voluto cantare per forza. È un film su guarda come una persona cerca di avere sempre un sogno da perseguire. È un film su guarda come l'amore si possa svelare anche quando magari non c'è. Perché in questo caso tu pensi che l'amore non ci sia e invece la grande prova d'amore la darà proprio questo marito così farfallone, che è Hugh Grant, tra l'altro. L'altra hai detto tu, Meryl Streep. La coppia di attori c'è tutta, diciamo, per portare a casa la pagnotta. È un film, certo, recitato da Meryl Streep anche in maniera abbastanza, come dire, manierista, scusate il gioco di parole, perché bisognava raccontare la storia vera di una donna che aveva davvero avuto questa avventura di un canto sgraziato, ma di una forza di volontà veramente di granito. E quindi è una storia bella, molto natalizia, e che ti induce anche in quegli sguardi fra Hugh Grant e Meryl Streep quando le parole non ci sono e quando invece sono gli occhi a parlare. Ecco, lì ti induce alla riflessione. Un bel film. Franco, tra le tante uscite di questi giorni ce n'è una che mi incuriosisce molto. Patterson, cos'è? Guarda, Patterson è uno dei film più attesi dell'anno, nel senso, se misuriamo la densità di attesa da parte del pubblico di questo film, no? Certo. Forse l'altro è La Bella e la Bestia, ecco, per intenderci, perché il pubblico di Jim Jarmusch attendeva questo film con grande, anche un filino di ansia, perché essendo stato prodotto da Amazon, che è una cosa abbastanza irrituale, non si sapeva bene all'inizio chi l'avrebbe distribuito in Italia, se fosse stato distribuito. Allora il film arriva a Natale, è una cosa abbastanza diciamo rischiosa, ma soprattutto coraggiosa. Però il pubblico, l'abbiamo visto negli ultimi anni, per il cinema d'autore anche a Natale c'è, assolutamente. Ed è una storia poetica di una coppia giovane in una provincia americana. Adam Driver è il protagonista maschile, che fa il driver anche di lavoro, perché fa l'autista di autobus. Lui nel film si chiama Patterson e la città si chiama Patterson. Jarmusch gioca molto con questo, certo, con le parole. E lui, come un novello Dante Alighieri, come dire, viaggia attraverso questa provincia americana raccontandosela e raccontandocela su un taccuino dove scrive queste poesie. È un affresco ed uno spaccato di come due giovani possano continuare a perseguire il proprio personale sogno americano dentro un'America che sembra non far sognare più. Però questa è l'America che sa cantare, che sa raccontare molto bene Jim Jarmusch, l'ha sempre fatto. E quindi chi ama questo spaccato, questa natura anche molto poetica di Jarmusch, troverà un film davvero delizioso. Chiudiamo con il cinema, con i bimbi e i ragazzi. Arriva finalmente Oceania, perché questo è il titolo italiano, non sbagliamoci, Oceania. Guarda, faremo dell'ironia, te lo dico già, la Rosa Purpurea su questa cosa. Però sì. Insomma, no, perché chiaramente forse ci voleva un po' più di coraggio. Mi dispiace molto che... Avresti voluto tenere il titolo internazionale. Moana, certo, Moana. Perché non adesso per tutta la vita non possiamo più dire Moana, chiamare una bambina Moana, ma che dire? Basta, è finita, cioè Moana non si può più usare. No, capisco che però qui contano anche altri aspetti, no? Però il titolo originale è quello, la protagonista si chiama Moana e noi invece abbiamo chiamato Oceania anche la protagonista, insomma, di una storia che, come dire, sicuramente non ha niente di meno di quello che ti aspetti da un gran film Disney di questi anni, tecnicamente, come narrazione, tempo, ritmo, montaggio, niente da dire. Forse non ha niente neanche di più, che però sta in un filone, che è il filone della giovane ribelle al femminile disneyana, per un film che comunque risulta sempre gradevole, combattute che ti fanno divertire e che mette insieme tutta la famiglia, quindi un prodotto veramente natalizio per Disney. Grazie Franco, tanti auguri allora. Ciao Marta, auguri. Il sabato del villaggio. E rieccoci insieme con il sabato pomeriggio di Radio 24, il sabato del villaggio, anche in questo sabato pomeriggio che è la vigilia di Natale, come sempre il nostro villaggio globale, la nostra guida per orientarci negli acquisti mentali, in tutte le nuove tendenze in fatto di musica, TV, serie TV, cinema, ma anche consumi, tecnologia, libri. E poi non dimenticate, nella terza ora, dalle 17 alle 18, il nostro consueto appuntamento con RadioTube insieme a Daniele Bellasio per tutta l'attualità della rete e dalla rete. Ma ora scopriamo i temi della seconda ora, gli ultimi consigli per Natale di Maria Luisa Pezzali, di Alessandra Tedesco, di Giulia Crivelli, ma prima uno dei passatempi più belli delle vacanze, diciamolo, le serie TV. Should all acquaintance be forgot for old lang syne? Allora, lo so che questa musica fa subito ultimo dell'anno e non Natale, ma tutti gli appassionati di serie TV, soprattutto le appassionate di serie TV, riconosceranno in questa esecuzione uno dei momenti fondamentali delle feste nelle serie TV, l'ultimo dell'anno di Sex and the City, in cui Miranda è da sola e Carrie corre sotto la neve praticamente mezza nuda, ma con un cappottone di pelliccia, con un cappellino bellissimo, e la va a salvare. Da quell'ultimo dell'anno cambia tutto. Quanto ci tengono compagnie le serie TV, che come quanto è importante scegliere delle belle serie TV da vedere in queste vacanze di Natale. Allora, proprio per questo chiediamo consiglio a un amico del Sabato del Villaggio, che tra l'altro ha una bellissima rubrica di serie TV sulla Stampa, quindi è un'autorità in materia. Buon pomeriggio e buon Natale a Gianmaria Tammaro. Ciao Gianmaria. Ciao, buon pomeriggio e buon Natale a voi. Te la ricordavi questa scena di questo ultimo dell'anno di Sex and the City? Qualche annetto fa, ma sempre vivo nella nostra memoria. Sì, che poi in realtà Sex and the City è una di quelle serie che ogni tanto non sai cosa fare e la rivedi. Soprattutto se facendo zapping la rivedi in TV e ti fermi e ti riguardi comunque la puntata. Non c'è niente da fare, è lì e allora fermi. Te la riguardi. Sì, assolutamente. È così. Senti, ma Gianmaria, che cosa dobbiamo vedere in questi giorni di vacanza, divano? Ma anche perché anche chi parte magari la sera voglia di un po' di intimità, appunto sdraiarsi o sedersi comodo con la copertina e guardare un po' di serie TV, che cosa ci puoi segnalare da non perdere? Allora, guarda, per rimanere sul tema natalizio, pensavo che perfetta è lo speciale che ha fatto Netflix di Una mamma per amica. Certo. Che fa piacere sia ad appassionati che non, però c'è quel tema lì, c'è il tema dell'inverno, delle vacanze, c'è un po' quell'atmosfera familiare quotidiana. E un altro speciale che ha fatto sempre Netflix in questi giorni, è uscito ieri venerdì, è lo speciale di Sense8, che le sorelle Wachowski hanno voluto fortemente, perché insomma non è una vera serie TV, hanno detto, se non ha il suo speciale di Natale per tutti i fan. È vero, perché noi abbiamo sempre visto, tra l'altro quando eravamo piccoli, anche se tu sei più giovane, che mischiavano le serie TV durante l'anno e non le trasmettevano nell'ordine giusto e nella stagione giusta. Noi per anni abbiamo visto gli speciali di Natale dell'ultimo dell'anno o del ringraziamento anche ad agosto, ma negli Stati Uniti è una tradizione eterna quella degli speciali di Natale a Natale, non mandati in onda a caso, ecco. Cioè, c'è proprio quella programmazione fissa, soprattutto la vecchia televisione, quella vecchia, oddio, quella che va ancora per la maggiore, che certo, è quella delle piena di pubblicità eccetera, c'è la sua programmazione con giriamo oggi lo speciale di Natale, e quindi allora si portava molto, adesso le Wachowski sono un esempio anche su Netflix, ma in realtà poi di serie da vedere e rivedere ce ne sono tantissime. Io cito le ultime, quelle che hanno appassionato di più quest'anno, cito la più attesa secondo il Time per gli Stati Uniti, che è The Young Pope, che noi abbiamo avuto la fortuna di vedere già, dove se, tra l'altro ci sono anche delle scene che si adattano a queste feste, perché comunque è un papa che vive la propria fede, la propria umanità ogni giorno. Poi c'è Westworld, che è una delle più discusse, che qualcuno dice che sia l'erede in certo senso di Lost, e non è tanto casuale dirlo, perché tra i produttori c'è J.J. Abrams, che è stato il creatore di Lost, ma ci sono anche serie italiane. Tra l'altro io Westworld non l'ho ancora vista, è una di quelle che mi sono messe via per le vacanze di Natale, appunto. Ci ricordi un po' di cosa parla Westworld? Westworld si rifà a un vecchio film della fine degli anni 70, dove insomma l'ambientazione è un parco a tema, che è proprio il mondo del West. La cosa particolare è che le attrazioni sono dei robot, quindi ci troviamo in un mondo futuristico dove gli ospiti, i clienti di questo parco a tema, un po' come Jurassic Park, no? Sono dei miliardari, sono delle persone molto ricche che possono vivere per un giorno, per una settimana, per un tot di tempo, la vecchia vita del Far West. Però ci sono tutte trame temporali che si intersecano, ci sono dei personaggi che tornano, altri che non tornano, è un po' un rompicapo come serie TV, è una di quelle serie da vedere in compagnia e poi da cominciare insomma a spettacolare un po', a capire che cosa può succedere. Per confrontarsi sulle versioni possibili, certo. Assolutamente sì. Negli Stati Uniti ha avuto un successo ampissimo, è già stata rinnovata per una seconda stagione, e tra l'altro è uno di quei progetti dell'HBO che a lungo termine, loro hanno già l'intenzione di farne 5 di stagioni, quindi è un piano ben preciso, hanno già tutte le loro idee, e Golden Globe è andata benissimo, è stata una delle serie più nominate, quindi è assolutamente ma allora faccio bene a recuperarla in questi giorni. Ti ho interrotto invece sulle serie italiane, volevi segnalare qualcosa di italiano? Sì, io vorrei segnalare, perché penso che sia una di quelle serie che ha dato un po' uno scossone. L'anno scorso toccò a Non uccidere, con protagonista Miriam Leone. Quest'anno è toccata a Rocco Schiavone, con protagonista Marco Giallini, che è probabilmente, penso, molto più dei Medici, che hanno catturato l'attenzione internazionale, perché adesso sono anche su Netflix in America, molto più di loro. Rocco Schiavone ha rappresentato quel cambiamento importante nella televisione italiana. Che ci dà un po' di speranza, insomma, già abbiamo citato Young Pope e Rocco Schiavone, quindi una produzione, tra l'altro è una coproduzione internazionale di Sky, ma anche qualcosa della Rai, e quindi questo fa molto piacere, insomma. Assolutamente sì, assolutamente sì. E poi ci sono gli immancabili di quest'anno che hanno avuto successo ovunque, che se ne è parlato tantissimo, da Stranger Things, che è la serie che ha avuto, diciamo così, più successo dal punto di vista mediatico, ma anche di visualizzazioni di Netflix di quest'anno, che racconta insomma di questo gruppo di bambini, di questo mondo ambientato negli anni 70-80 e di queste teorie un po' cospirazionistiche con i mostri. È un mondo molto che ammicca molto a quell'immaginario, insomma, dei Goonies, del primo Steven Spielberg, molto per gli appassionati, ma anche per chi cerca una serie che si faccia vedere in una volta sola. E l'altra serie che mi sento di consigliare è BoJack Horseman, che non è una vera e propria serie con attori, ma è una serie animata. Certo. Per molti siti e per molti giornali stranieri è la miglior serie dell'anno, uscita la terza stagione, ed è sicuramente uno dei prodotti più interessanti, perché tramite, diciamo così, il fantoccio di questo attore cavallo ci si interroga su quello che è il successo che viene dalla televisione, sul mondo delle star, su Hollywood, su quanto alcune cose siano effimere e su quanto molto spesso la cosa migliore sia non prendersi sul serio. Ed è incredibile che lo faccia un cartoon per adulti e non una super serie premiatissima con super budget. Sono d'accordo. Per concludere, io ho visto che qualche giorno fa hai twittato le serie TV più attese del 2017 secondo Time, e tra l'altro appunto una delle serie che loro segnalavano è proprio The Young Pope come una delle serie da non perdere. Secondo tu cosa aspetti con maggior attesa, con maggior curiosità per il prossimo anno? Allora, il punto del prossimo anno è questo: ci sono delle serie che aspetto con molta attenzione, per esempio la seconda stagione di Billions, che è andata quest'anno in onda su Sky la prima, o anche Riviera, che è sempre una serie di Sky, che è una produzione internazionale, la stanno girando proprio in questi mesi, Riviera. Ma quella che aspetto molto, di cui non si sa ancora molto se partirà l'anno prossimo, se uscirà entro la fine dell'anno prossimo, è la serie che si ispira ai libri di Elena Ferrante. Ah, accidenti, certo. Che sono stati acquistati, insomma, i diritti dalla Wildside, che è una casa di produzione italiana, e la news arrivò su Variety su questi prossimi inizi di ripresa. Non si sa ancora bene quando, però è sicuramente una delle più attese, non tanto e non solo da noi, quanto a livello internazionale, perché Elena Ferrante, insomma, certo, ci sta rappresentando molto bene in librerie e anche altrove. E poi aggiungerei Twin Peaks, e qui l'attesa è, non lo so, il mistero più mistero del mistero. Assolutamente sì, qualche giorno fa è uscito un nuovo teaser, che è uno di quei teaser un po' criptici, dove c'era ma chissà, David Lynch, stranissimo che David Lynch faccia qualcosa di misterioso e di imperscrutabile, non ce l'aspettavamo. Comunque nel teaser lui c'è, continuava a dire ci sono, non ci sono, ci sono, non ci sono, però a quanto pare c'è. A quanto pare sì, poi bisogna vedere un po' Showtime come se l'è cavata alla fine, perché insomma ci sono stati anche lì dei problemi certo, di produzione, di tira e molla, però alla fine si è fatta, e se hanno lasciato libertà a Lynch sicuramente sarà una stagione da non perdere. Poi se Lynch riesce a fare Lynch al 100%, piacerà a tutti, insomma. Sono molto molto contenta. Grazie per essere stato con noi. Grazie a Gianmaria Tammaro. Io non lo dico il tuo account di Twitter, lo twitto perché è complicatissimo da spiegare. Comunque ci proviamo. Allora, chiocciola Gian, scritto con la I lunga, trattino basso 91, scritto in lettere. Così lo trovate anche su Twitter, oltre che nella sua rubrica sulla stampa dedicata alle serie TV. Grazie Gianmaria e buon Natale! Grazie a voi e buon Natale! Noi ci ritroviamo tra pochissimo. Il sabato del villaggio. The party's on, the feeling's here. That only comes this time of year. Simply having a wonderful Christmas time. Simply having a wonderful Christmas time. The choir of children sing their song. Vigilia di Natale, è il momento degli ultimi consigli, dei regali dell'ultimo momento. Chissà in quanti vogliono andare in libreria questo pomeriggio. Io ci sono stata un paio di giorni fa, ho fatto una fila lunghissima per pagare alla cassa. Vabbè, buon segno, perché vuol dire che si sono comprati tanti tanti libri. In queste settimane abbiamo dato tanti consigli, ma quali saranno quelli dell'ultimo momento? Beh, li chiediamo ovviamente a Alessandra Tedesco. Ciao Alessandra, vedo che hai ancora lì un sacco di libri da consigliare. Marta, i famosi libri alla radio, li facciamo sentire, c'è una bella pila grande, insomma, perché sono veramente tanti, anche perché bisogna cercare di intercettare i gusti di tutti, perché magari si vuole fare un regalo, dici, oddio, che cosa posso regalare al mio amico che è appassionato di thriller? Mm-hmm. Qual è? Io vedo già il nome di un autore. attore noto, notissimo. Sandrone D'Azieri, l'angelo. Bene, sì. Sembra così innocuo, sì, questo titolo, questa copertina, l'angelo, così guarda, angelica. Sono stata indecisa se segnalarlo appunto la vigilia di Natale, perché è un thriller, veramente thriller. Sai il thriller de paura? È esattamente quella roba lì. Non fatemi ingannare dalla copertina. No, non allora. Fatemi ingannare dalla copertina. Però insomma, veramente per gli appassionati di thriller in questo periodo, i thriller all'americana, soprattutto fra gli autori italiani, sicuramente segnalerei Donato Carrisi e Sandrone D'Azieri. Di Donato Carrisi abbiamo già parlato, Sandrone D'Azieri, L'Angelo, pubblicato da Mondadori. Si ritornano gli stessi personaggi di Uccidi il padre, che era stato un altro thriller bello forte del 2014, cioè sono il vicequestore Colomba Caselli e Dante Torre. Chi è Dante? Lo si scopriva nel primo romanzo, appunto. Lui da piccolo era stato prigioniero di un uomo addirittura per 11 anni, era stato proprio chiuso in un silo e poi col tempo era diventato esperto di persone scomparse e ogni tanto collabora con la polizia. Qual è il caso con il quale hanno a che fare? Un caso terrificante, ve lo dico subito, anche se la vigilia di Natale, però gli appassionati di thriller potranno capire. C'è un treno che arriva alla stazione Termini, quindi a Roma da Milano. La polizia ferroviaria scopre che tutti i passeggeri della carrozza, diciamo di lusso, sono morti. Si pensa, come purtroppo capita spesso in questo periodo, a un attentato diciamo di matrice islamica, ma Colomba troverà un'altra verità. Ecco, che non vi dico. Però paurosa, ho già capito che è paurosissimo. È bello, bello, ti tiene insomma sull'attenti, diciamo. Senti, così. Invece per chi come noi avesse bisogno un po' più di sorrisi, un po' più di ottimismo in questo Natale, così un po' in salita. E allora guarda, l'ho scelta apposta subito dopo D'Azieri, Gabriele Romagnoli. L'ultimo libro si intitola Coraggio, pubblicato da Feltrinelli. Circa un anno fa Romagnoli aveva scritto quel bel libro, sempre piccolino, Solo bagaglio a mano, trovate tra l'altro intervista sul sito di Radio 24 sotto il cacciatore di libri, che era un po' una riflessione su come possiamo liberarci, diciamo, di tante cose, di tante persone inutili e arrivare al vero senso, alla vera essenza della vita, alle cose che contano, alle persone che contano. E invece in Coraggio cosa fa Gabriele Romagnoli? Beh, è una sorta di esortazione, no? E la fa attraverso, diciamo, un viaggio fra i suoi personali simboli del coraggio, fra i quali per esempio troviamo anche un calciatore, Eric Abidal, che aveva vinto la Champions League pochi mesi dopo che gli era stato diagnosticato un tumore. Quindi insomma Gabriele Romagnoli con questo coraggio vuole infondere appunto coraggio a tutti quanti. Mi sembra un ottimo libro per l'inizio dell'anno, per la fine di un anno che magari non è stato bellissimo, però sarà bello il 2017. Ne abbiamo bisogno. Alessandra, ancora consigli, qualcosa così, ho dei regali da fare per qualcuno che non è proprio più un teenager. Ecco, per chi non è più un teenager e per chi ama i romanzi di formazione, anche possiamo dire romanzi generazionali, però magari ha superato i 50 anni, ecco, mettiamola così, c'è un bel romanzo che si intitola Un'educazione milanese, l'ha scritto Alberto Rollo, sottotitolo Il romanzo di una città e di una generazione, pubblicato da una piccola casa editrice che si chiama Manni. Allora, che cos'è questo? Beh, è un romanzo autobiografico, quindi si parla dell'infanzia dell'autore protagonista, che sostanzialmente è originario insomma di una famiglia del sud, però lui è nato e cresciuto a Milano, quindi c'è la Milano anni 50, lui che vive in periferia, e c'è un episodio cruciale nella vita di questo bambino. Cioè, a un certo punto, in mezzo alla folla, perde il papà, perde la mano del papà, e un signore lo tira in alto e dice: di chi è questo bambino? Milano lo vuole? E allora quella frase gli è rimasta sempre impressa, perché poi Alberto Rollo ha deciso che la sua certezza è che Milano lo ha voluto. E poi si segue naturalmente tutta anche la giovinezza del protagonista autore, quindi non so, la fascinazione delle lotte operaie e così via. Appunto, è un romanzo generazionale dagli anni 50 in poi. Devo dire che a me piace molto come idea, anche per chi magari volesse rivivere una Milano così un po' lontana. Sì, mi... sì, sì, beh, anche chi incuriosisce. Anche chi non è di Milano, ovviamente, ci mancherebbe. I romanzi sono sempre a 360 gradi, traggono solo spunto magari da un luogo, da una situazione. Allora, hai detto Milano e vedo un libro con scritto Milano, ma non vedo cosa c'è scritto. Pappa? Pappa. Ah, Pappa Milano? Eh sì, Pappa Milano. Lo so, parlare di Pappa alla vigilia di Natale sembra un po' insolito. Magari stanno cucinando i nostri ascoltatori, le nostre ascoltatrici. Tu usi fare anche il cenone di Natale, Marta? O sei nordica? No, no, no, no. Io sono... Lo facevo quando ero piccola. Lo facevamo quando ero piccola, adesso no. Ma al limite si taglia una fetta di panettone la sera della vigilia. Noi meridionali invece festeggiamo sempre. Ma io sono brianzola. Lo so, noi del sud invece facciamo la vigilia del 24, cena di pesce rigorosamente, poi il 25 se magna, comunque in teoria brodo, ma noi mangiamo le lasagne, quindi non ti dico altro, e poi c'è Santo Stefano e poi insomma si va avanti così per giorni e giorni. Allora, che cos'è questo Pappa Milano? È un piccolo libro scritto dal critico gastronomico Valerio Massimo Visintin, è presente quello che non si vuol far mai vedere, insomma, che è tutto mascherato eccetera, e per Terre di Mezzo ha pubblicato questo piccolo libricino dove da 150 indirizzi per mangiare bene e non spendere una fortuna, che voglio dire, non è mica male. Però l'ho messo insieme a un libro che interessa sicuramente chi ama cucinare, chi ama cucinare in casa, e si chiama Le ricette smart food di Eliana Liotta, scritto con Lucilla Titti, pubblicato da Rizzoli, e sono i 100 piatti con i cibi intelligenti, occhio perché sono intelligenti alcuni cibi, che mimano il digiuno, combattono il sovrappeso e allungano la vita. Lo sto dicendo in modo scherzoso, ma in realtà è un libro molto serio e interessante, realizzato anche con in collaborazione con la fondazione dello IEO, che è l'Istituto Europeo di Oncologia. Praticamente ci sono delle ricette su cibi assolutamente sani che possono servire alla prevenzione di una serie di malattie. Quindi dopo le abbuffate di Natale, secondo me, smart food vi rimette in riga in tutti i sensi. Ragazzi, ragazzi, consigli per i ragazzi. Sì, guarda, stavolta ho scelto proprio i ragazzi, non i bambini, ma quelli un po' più grandicelli. Hai presente Animali fantastici e dove trovarli? Ma certo, è uscito anche il film un mesetto fa, poco più di un mese fa, grandissimo successo. Infatti, però adesso pubblicheranno a gennaio, quindi bisogna aspettare un po'. Salani pubblicherà lo screenplay, sostanzialmente insomma la sceneggiatura di questo film, di sceneggiatura scritta da J.K. Rowling, insomma parliamo dell'autrice del mega bestseller Harry Potter. Però per consolarci, se vogliamo fare un regalino prima di aspettare insomma metà gennaio, ci si può consolare con due libri che ha pubblicato la Mondadori, che sono Animali fantastici e dove trovarli, la magica guida al film, oppure La guida ai personaggi. Quindi se vi è piaciuto il film e volete un po' avere un ricordo anche di immagini, avere dei retroscena, questi due libri sono l'ideale per i ragazzi ma anche per gli adulti. Perfetto, perfetto. Allora, ancora il tempo per un consiglio o un paio di consigli. Sai che io vedo che davanti a te è un audiolibro e a me piace molto consigliare gli audiolibri per i lunghi viaggi in macchina. Ci sono magari tanti ascoltatori che ovviamente Radio 24, ma magari anche un audiolibro. Ma sì, quando non c'è il sabato del villaggio, non c'è il cacciatore di libri, potete mettere su tranquillamente un audiolibro. Adesso ci licenziano, Marta, alla vigilia di Natale non sarebbe bello. Allora, l'audiolibro che consiglio è Le correzioni di Jonathan Franzen, pubblicato come molti audiolibri da Emmons, letto da Vinicio Marchioni. Perché ho scelto Le correzioni di Franzen? Beh, perché ha molto a che fare con il Natale, perché il protagonista cerca di, come dire, dopo 50 anni di matrimonio, di riunire la famiglia a Natale per una ragione che non vi posso spiegare, che potete scoprire solo ascoltando l'audiolibro. Lo scopriremo solo ascoltando. Chiudiamo il consiglio low cost, come consiglio sempre. Consiglio low cost, a Natale è facilissimo. Io direi Canto di Natale di Charles Dickens, lo trovate in 1000 edizioni, per bambini un po' cresciuti, per adulti, per adultissimi, per vecchietti, insomma lo trovate in qualsiasi versione. Canto di Natale, un libro che è un sempreverde. Grazie Alessandra. Ultimo consiglio, cacciatore di libri, appuntamenti natalizi? Ce ne sono tantissimi, Marta, perché naturalmente ci saranno delle puntate speciali. Allora, per il giorno di Natale, all'ora del tè alle 17, poi il 26 alle 11 del mattino, c'è uno speciale cacciatore di libri, i libri che hanno segnato il 2016, quindi ripercorriamo un po' con le interviste più importanti quest'anno che sta per concludersi. E poi per gli appassionati di noir ci sarà uno speciale il 31 dicembre e il 1 gennaio. Però io vi perseguiterò anche tutte le mattine, dal lunedì al venerdì, perché alle 6:10 andranno in onda delle puntate speciali del Cacciatore di Libri, visto che questo è il periodo in cui si comprano più libri e si regalano. Molto, molto contenta. Buon Natale, Alessandra. Ci ritroviamo l'anno prossimo. Marta, che bello, buon Natale anche a te, io vado a fare il cenone perché sai com'è, noi meridionali facciamo anche il cenone e veramente tanti auguri di cuore a tutti gli ascoltatori, veramente col cuore, state in compagnia, state in famiglia, ma leggete anche un pochino di libri che fanno sempre tanta compagnia, ciao! Il sabato del villaggio. Un augurio di una buona vigilia e di un buon Natale anche a Maria Luisa Pezzali, che è qui con noi per, come sempre, come ogni sabato, parlarci un po' delle nuove tendenze in fatto di consumi. Abbiamo fatto tutti i regali, c'è ancora qualcuno che sta correndo sicuramente, ma insomma tu sei a posto, Maria Luisa? Io sono a posto, sono super contenta, soddisfatta, veramente. Ciao molto, Marta, molto bene. Ciao, un saluto Maria a tutti, però magari qualcuno invece è nei guai in questo momento, quindi non ho dubbi. Cerchiamo di aiutarlo. Allora, in questo mese, Marta, abbiamo raccontato i numeri con le varie ricerche, qualche piattaforma strategica per le consegne degli acquisti online oppure offline, le shopping destination, quindi oggi siamo ormai veramente agli sgoccioli, ho deciso di scegliere una tra le tendenze degli acquisti del Natale e raccontare un po' la cornice, anche quali sono i suoi prodotti simbolo, poi saranno gli ascoltatori a decidere se la tendenza fa per loro oppure no, perché magari è una cosa... qualcuno ha già, senza saperlo, c'è già cascato. Esatto, parliamo di scrittura a mano, tutto il mondo della calligrafia, che della meraviglia. Scrittura a mano. Sai che io mi guardo un sacco di video su YouTube. Ah, vedi? Di quelli che fanno queste cose bellissime. Allora tu e sei fanno in target. Allora io non ho talento, però mi piace vedere queste persone che provano queste penne straordinarie con doppio pennino, triplo pennino e fanno queste cose bellissime, rilassantissime. E beh, perché nell'era della digitalizzazione è tornata di moda la scrittura a mano, tutti i fenomeni, lo sappiamo, producono il loro antidoto e è anche vero. Per il mondo digitale è così. Gli scienziati, tra l'altro, dicono che scrivere a mano fa bene alla mente perché favorisce l'organizzazione mentale e quindi l'apprendimento, il famoso segreto degli appunti a scuola, Marta. Infatti io sono sempre stata bravissima a prendere vedi? Appunti. Vedi, sì, infatti hai fatto molta strada. Sì. Comunque, nonostante tutte le sentenze di morte, perché lo sappiamo, l'hanno detto mille volte, i libri digitali e la scrittura a mano, quindi sentenze di morte per la scrittura a mano, nonostante tutto questo la scrittura a mano non morirà neanche nel futuro, lo dicono tutti gli esperti, anche i profeti proprio del digitale, ed è un mondo che ci gira intorno. Basta pensare al successo di brand come Moleskine, Fabriano con le Fabriano Boutique e poi Clairefontaine, i mitici taccuini. Non dico niente, quelli che quando io vado in Francia porto a casa a vagonate. Non so se ti ricordi, Marta, ma ci eravamo già confrontate anni fa, questa è una insana passione che ci unisce molto. Verissimo. Perché anch'io sono una cultrice. E tra l'altro Moleskine ha recentemente lanciato sul mercato un prodotto molto particolare che unisce proprio la scrittura a mano con il digitale. Si chiama Smart Writing Set, è stato soprannominato il tablet di carta, è praticamente un set costituito da un taccuino speciale, di carta speciale, una penna altrettanto speciale con una microcamera e un'app, e trasferisce in tempo reale gli appunti a mano in digitale sullo schermo. Perfetto. Quindi, direi uno strumento molto utile. Un ponte tra tradizione e innovazione. Ma sempre per parlare di prodotti, pensiamo al successo, al boom di libri quali Come sopravvivere al mal d'amore, guida di automedicazione per cuori infranti. È un libro, un piccolo fenomeno editoriale, in pratica è un manuale romanzo con frasi in stampatello, schizzi, frasi a pennarello, insomma, che mette molto insieme in evidenza questo mondo. Ci può anche mondo. Dare qualche ispirazione per farne uno noi, magari. Potremmo con qualche storia della radio. Beh, allora chissà se è un libro romantico, chissà che genere, che cosa, chi lo sa. E poi il fenomeno Carrie Smith, i bestseller Questo non è un libro e Distruggi questo diario sono amatissimi da mia figlia, insomma sono dei libri taccuino da riempire di scritte, ritagli, scarabocchi e poi insomma maltrattarli in tutti i modi, però che valorizzano molto la dimensione appunto della carta e dell'uso proprio della scrittura. E poi è boom quest'anno incredibile per i corsi di calligrafia.

piano, prendendo i famosi appunti, gli schemini con le frecce, i miei pensieri, ho imparato a organizzarli in quel modo lì. Mi viene difficile farlo diversamente. Questo non significa che io non utilizzi comunque il sistema digitale, però parto sempre dal manuale. Se devo preparare una lezione o scrivere un articolo, mi organizzo le idee sulla carta. E poi comunque siamo un po' anche tutti i feticisti della carta e degli strumenti per scrivere, ecco, le penne, le matite, i vari tipi di carta, c'è anche tutto un mondo che ruota intorno a questo. Mi piace un sacco questa storia della calligrafia, io quel talento non ce l'ho. Ho una bella grafia ma non ho tutto quel talento lì, eppure niente, mi ispira moltissimo. Qualcosa che mi piace davvero tanto, ma l'ultima chicca prima di Natale della nostra Cristina Lazzati, ce la vogliamo perdere? Dovremmo averla in collegamento. Buongiorno Cristina! Buongiorno! Anche eccoci. Tu regali tutto a posto? Regali sì, sto aspettando delle consegne, avrei dovuto approfittare del consiglio di un paio di settimane fa e utilizzare quel service, perché Amazon mi sta un po' lasciando a piedi. Allora, l'ansia dell'ultimo momento, del pacchetto, arriverà o non arriverà? Sì, non e solo quindi... Amazon, devo dire Cristina, anch'io sono rimasta a piedi con un regalo e mi è arrivata la mail che nessuno vorrebbe mai ricevere, posticipato a gennaio. Accidenti. Io invece questi... tecnologia, ve lo confesso, li ho comprati tutti nei negozi fisici quest'anno. Mitica non Marta. Mi sono fatta arrivare niente, vabbè, mi sono divertita così. Brava Marta. E tornando invece alla calligrafia, sicuramente molti di voi in questo momento hanno in mano una lista della spesa che hanno scritto a mano. E quindi con questa lista della spesa vi do qualche consiglio, un po' last minute, ma che sicuramente potete utilizzare anche per il cenone di Capodanno, per fare una spesa oculata. Allora, consiglio numero uno, ricordatevi che non state scappando su un'isola deserta, ma bensì si tratta del pranzo di Natale piuttosto che del cenone di Capodanno, quindi durerà quello che dura. Le ricette che andrete a fare, che saranno sicuramente buonissime ed elaboratissime, non le ripeterete nel giro di una settimana, perché il solo pensiero vi farà star male. Quindi occhio agli ingredienti. Quindi non comprate etti su etti di affettato, perché sicuramente chiunque arriverà, i vostri ospiti e voi stessi, avrete da mangiare a sufficienza, per cui fate conti oculati. Tanto i negozi riaprono, giuro, me l'hanno promesso che riapriranno, non rimarranno chiusi per tutto il 2017. Dopodiché occhio alle primizie, nel senso che comunque comprate cose di stagione, ci sono molte primizie in giro, soprattutto nell'ortofrutta, però in linea di massima se state sulla stagionalità risparmiate e in fondo le ciliegie ve le mangiate tranquillamente quando sarà la loro stagione. Sono d'accordo, era un segno di opulenza fino a qualche anno fa quello di portare in tavola alcuni cibi fuori stagione, però direi che l'abbiamo fatto, basta. Basta, è out. Poi abbiamo, attenti alle scadenze, perché oltretutto se comprate in abbondanza state attenti che soprattutto sui freschi ci sono delle scadenze particolari, anche quando vi avventurate magari in prodotti che normalmente non acquistate, quindi state attenti. Per quanto gli champagne francesi siano buonissimi, vi faccio presente che abbiamo degli ottimi spumanti e prosecchi. A questo punto fatevi aiutare anche da internet, nel senso che andate a cercare o da amici che ci capiscono, ormai chi non ha a tavola una persona che si intende di vini, comunque fatevi consigliare e andate a comprare magari marche meno conosciute ma altrettanto buone e sicuramente un po' meno care. Anche per quello che riguarda il sottocosto e le promozioni che abbondano in questi giorni, anche lì chiedetevi, il 3x2 ha un senso? Ho bisogno veramente di tre di questi? Perché alla fine se ne avete bisogno di uno solo, peggio ancora di mezzo, meglio che vi accontentate e lasciate lì l'offerta che in fondo tornerà. Giuro, anche lì le promozioni non finiscono col 2016. Attenzione ai pacchi regalo, vi saranno arrivati o vi arriveranno dei pacchi regalo dentro. I cesti, quelli confezionati? I cesti confezionati, guardateci dentro, in alcuni casi ci sono dei prodotti freschi, quindi qui punto uno, guardateci dentro e non lasciate lì, tanto li apro dopo, perché magari le cose vanno a male. E quando li regalate però state attenti a quello che c'è dentro. Siete proprio sicuri che tutto quello che c'è nel cesto valga la pena? cucina, allora tanto vale andare nei posti dove il cesto te lo confezionano in base alle tue richieste. Magari si lascia giù una cosa, se ne prende un'altra, si spende di più per un'altra cosa e magari se ne mette dentro una di meno. Però occhio, perché se sono regali cercate di regalare qualità e non quantità. Quindi mi raccomando, tenete pronti i Tupperware, avanzeranno sicuramente delle cose, metteteli in frigorifero e per cortesia non sprechiamo. Sono d'accordo. E la mitica macchinetta per il sottovuoto che l'anno scorso avevamo. Il regalo dell'anno scorso. È vero. Il regalo dell'anno scorso. Quest'anno. È vero, se non l'avete usata fino ad ora, questo è il momento, tiratela fuori. Se l'avete desiderata tantissimo per il Natale dell'anno scorso e non l'avete usata, fantastico, come spesso succede. Grazie, grazie Cristina e buon Natale. Ci risentiamo nell'anno nuovo. Buon Natale a tutti. Ciao, grazie Cristina. Ciao. Auguri anche a Maria Luisa Pezzali, alla famiglia di Maria Luisa Pezzali. Grazie, e vabbè, insomma, poi ci risentiamo ancora durante le feste, certo, con tutti i Meglio Di, con tutte, certo, le trasmissioni speciali. Certo, e poi con Essere Avere, come sempre, la domenica alle 22. Ciao, ciao Maria Luisa. Il sabato del villaggio. Shake up the happiness. Wake up the happiness, shake up the happiness, it's Christmas time. There's a story that I was told, and I wanna tell the world before I get too old. Don't remember it, so let's assemble it and reassemble it, oh yeah. Once upon a time in a town like this, a little girl made a great big wish to fill the world full of happiness and be on Santa's magic list. Shake it up, shake up the happiness. Wake it up, wake up the happiness. Come on, yo, it's Christmas time. It's Christmas time, è la vigilia di Natale, manca pochissimo, io so che avete già comprato tutti i regali, non state facendo le ultime corse, no scherzo, so che un sacco di gente sta facendo le ultime corse perché mancano gli ultimi pacchettini. E poi, lo dico sempre, ci sono tutti quelli che riceveranno tra oggi, domani, ma anche dopodomani, le bustine con i soldi della zia, della nonna, allora dei regali che possiamo farci anche da soli tra qualche giorno, e ci sono anche quelli, o magari aspettando i saldi. Allora, non dico i saldi a caso perché vogliamo un po' concludere un viaggio che abbiamo fatto in queste settimane su tutte le tendenze in fatto di moda. Concludere solo per Natale, perché poi continueremo a parlare di questo argomento che piace moltissimo ai nostri ascoltatori e alle nostre ascoltatrici, e lo facciamo sempre con Giulia Crivelli. Ciao Giulia. Ciao Marta. Tu tutto pronto o uscita da qui devi fare ancora, sì, qualcosa? Tutto pronto, poi quest'anno ci sono i miei nipoti, dobbiamo fare ancora gli ultimi ritocchi all'albero, perché io sono mezza tedesca, quindi loro sono un quarto tedeschi, e dobbiamo fare questo rito di mettere dei sottilissimi fili d'argento che sarebbero i capelli degli angeli che si impigliano negli alberi nella notte di Natale. Che poesia, che cosa meravigliosa, voglio farlo anch'io allora, voglio farlo anch'io, mi hai dato un consiglio. Allora Giulia, davvero io non scherzo quando dico ci sono anche gli autoregali che poi ci si fanno con le bustine delle zie. Ma soprattutto, insomma, veramente mancano poche ore, se avete qualche proprio urgenza ultima che vi siete ricordati o non siete riusciti a trovare il regalo. In realtà il 24 tradizionalmente nel pomeriggio non ci sono molte code nei negozi, magari ci sono state ieri, il 23, venerdì, perché la gente magari a casa che più che altro prepara da mangiare. Quindi evitiamo i posti dove ci sono cibi, perché secondo me lì le code ci sono. Secondo me due posti dove non ci sono code sono i parrucchieri e lì vi consiglio, per gli amanti dei capelli, del farsi i capelli da sole, questi phon intelligenti. Per esempio la catena Jean-Louis David, che ce n'è tantissimi, ha questi phon che si chiamano Baby Bliss e sono qua, appunto, appartengono un po' alla categoria dei phon intelligenti, quasi professionali, e secondo me sono un bellissimo regalo. E tra l'altro, appunto, abbiamo visto qualche settimana fa, c'è proprio una tendenza dei produttori di elettrodomestici a concentrarsi su questi elettrodomestici di nuova generazione. Mentre un altro posto dove secondo me non ci saranno code, perché tanto sono aperte anche il giorno di Natale per legge, sono le farmacie, e lì vi consiglio questi Bioethic Bijou, che sono anche qui, stanno diventando un po' una piccola tendenza, perché sono soprattutto a forma di cubetto. E sono, mio amico mi prende in giro e dice: a te piace la scienza, quindi hai voluto il bijou a forma di cubetto. Sono ovviamente cristalli Swarovski, completamente anallergenici, dicono anche di essere super sostenibili nella produzione, ma stanno diventando veramente, perché sono gli unici che li fanno, e sono di tante dimensioni. Anche lì farmacia, anziché chiedere ai farmaci, andate al bancone, ci sono questi bioethic bijou che sono deliziosi. Ottime idee, ancora suggerimenti, Giulia? No, poi mi perdo nei suggerimenti di Giulia. Naturalmente, insomma, io personalmente, la Marta lo sa, sono un po' indietro come tecnologia, ho un BlackBerry che mio cognato chiama il dead phone walking e con questo acquistare online non è tanto facile, ma so che la maggioranza di voi avrà dei telefoni con cui fare tranquillamente mobile commerce, oppure se siete a casa vi godete le ultime ore prima della cena del 24. Ecco, online secondo me sono una cosa stupenda le gift card virtuali, perché arrivano comunque in tempo, voi la scegliete, la mandate e la persona la riceve nel momento giusto, cioè o già stasera oppure al massimissimo domani, che è proprio il giorno di Natale. E allora, per esempio, in tema di trucchi, quest'anno torna di nuovo tantissimo il glitter, potete andare da Kiko, gift card della cifra che volete voi, pensate cosa può comprare una persona con una gift card a 100 euro di Kiko. Beh. E puntate soprattutto agli smalti, agli ombretti, che glitter. E poi non dimentichiamo che una tendenza che si sta consolidando è quella dei trucchi da uomini, ma tutti, eterosessuali compresi, quindi se volete osare o fare uno scherzo a un vostro amico, adesso ci sono questi lucida labbra o unisex oppure fatti proprio per gli uomini. Ah, fantastico, quindi lucida labbra, perché un tempo si parlava di metrosexual, invece adesso è diventato tutto normale. Esatto. Quindi lucida labbra da uomo, a me così diverte questa cosa così carina. E poi un'altra cosa che si può fare online, e anche qui so che tanti di voi lo seguiranno, lo sapete, questa settimana è iniziato MasterChef 6, è anche questa una tendenza di fatto, è una tendenza persino... Stanno diventando i vestiti da cuochi, cioè quelle giacche, quelle camicie, i famosi calzoni a quadretti bianchi e neri, che sono in effetti bellissimi, forse particolarmente adatti ai tifosi della Juventus, ma sono stupendi perché poi sono molto comodi. Siccome la grande tendenza di quest'anno, e secondo me è qui per restare, è vestirsi comodi, cosa meglio di un pantalone da cuoco? E allora lì, anche approfittando appunto del fatto che magari siete anche cultori di MasterChef, sul sito www.siggigroup.it, che poi facendo una ricerca con MasterChef lo trovate comunque, è l'azienda che è specializzata in abbigliamento per cuochi, che ha fatto questa mini capsule, così si chiamano, per MasterChef. E anche lì, se la volete regalare non c'è fretta, ma se invece dovete regalarla, se la volete regalare a voi stessi, se invece è proprio un dono di Natale, anche qui potete far mandare un avviso via mail avvisando che tra pochi giorni arriverà il pacco regalo. Bella questa cosa del regalo virtuale, che comunque arriva la mail, esatto. Il regalo c'è e deve solo aspettarlo il destinatario, perché poi ne abbiamo parlato anche con Maria Luisa Pezzali, l'ansia dei pacchi che non arrivano, oppure quella mail fatidica che arriva che dice: purtroppo il pacco non verrà consegnato in tempo, e quello è veramente la maledizione. Tra l'altro sull'e-commerce c'è questo problema dei resi, che è una delle tante cose che magari ci facevano scegliere un sito che facilitava i resi, perché magari prendevamo tre per le scarpe, soprattutto magari tre numeri, sapendo che potevamo renderli facilmente. Adesso questa cosa sta diventando molto difficile da gestire e alcuni siti di e-commerce stanno cominciando a pensare di mettere un po' di paletti sui resi. Io lo faccio sempre, c'è questo sito da cui io compro tantissime cose, che è, diciamo che è il più noto sito inglese, che ha quattro lettere nel nome e comincia con l'A, e io compro sempre due o tre taglie, perché poi con gli inglesi non si sa mai qual è la taglia. Esatto. Perché può andare bene la 38, la 40, la 42, la 44, non lo sai mai, perché loro di solito sono un po' più corpulente, un po' più grandi, io sono piccina e compro sempre tante taglie, poi scelgo e dici che diventerà sempre più difficile. Mi sa che perché sono dei costi tremendi, è un grande servizio ma è un grande costo. Come vabbè, tutti però i sono servizi. Disposta a pagarlo, dai, diciamo così. E invece, secondo me è un altro posto dove non ci dovrebbe essere tante code in queste ultime ore, sono i negozi di scarpe, perché la scarpa uno la vuole provare con calma. Quindi se avete un uomo a cui piacciono le scarpe, scarpe. Un altro trend è quello dei kit per la manutenzione delle scarpe. E anche qui entrate in qualsiasi negozio, perché ci sono appunto per il cultore delle scarpe sportive o per il cultore delle scarpe super raffinate, basta veramente, cioè da sbizzarrirsi. E questo è secondo me un regalo bellissimo per un uomo, perché per loro può essere un rituale. Pensate che c'è un marchio di scarpe di lusso che è Berluti, che organizza una volta all'anno una riunione di tutti i clienti più importanti, si riuniscono, cenano e poi dopo cena si mettono lì a pulire le scarpe secondo un rituale che comprende una non so quanti passaggi, e se si sgarra c'è il super esperto di lucidatura che ti fa le pulci, che tu sia il grande finanziere o insomma il ragazzino che si è tolto lo sfizio della scarpa di lusso. Incredibile, questa cosa non la conoscevo. Ancora consigli, abbiamo ancora qualche minuto? Guarda, questa è proprio una cosa recente ma credo che tornerà. Tutti ricorderete nel 2013 il lancio dei molto roboante dei Google Glass. Certo. Che poi Google, come avrebbe, teoricamente, se vogliamo essere precisi sull'inglese, avrebbe dovuto chiamarli Google Glasses, ma loro, per essere ancora più originali, Google Glass. Sapete che erano delle montature molto semplici, poi avevano come una mini telecamerina, promesse di realtà aumentata, entreremo tutti nel magico mondo della realtà aumentata, tutti connessi. Il progetto non è andato tanto bene, nel 2015 è stato completamente cancellato, anche perché durava 3 ore la batteria e c'erano dei bug tremendi nel software, e Enrico Pagliarini potrebbe raccontarcelo. Però le wearable technologies sono un altro grande trend, e quindi adesso, e secondo me Enrico li noterà, alla CES di Los Angeles, che ci sarà a gennaio, dove Enrico va sempre, verranno presentati questi nuovi occhiali intelligenti, ma questa secondo me è una cosa bellissima. Sembrano occhiali normali, quindi non brutti come erano, scusatemi, ma così è secondo me i Google Glass, belli perché fatti da Safilo, che è uno dei grandi produttori italiani, e soprattutto hanno un meccanismo, una tecnologia invisibile all'esterno che capta le onde cerebrali e vi sa dire se siete concentrati o no. Ma soprattutto lo sanno gli altri se siamo concentrati o no, cioè se noi stiamo parlando con qualcuno che in realtà se ne sta fregando, lo possiamo vedere. Ecco, questo spero di no, perché questo potrebbe essere un po' delicato. Ma che meraviglia, quante curiosità. Vabbè, magari ci risentiremo anche poi per i consigli sui saldi. Perché poi si possono fare i regali per l'Epifania, i regali per qualsiasi cosa. Poi ho bisogno anche dei consigli sui saldi. E poi ricordiamoci che tu ti avevi già predetto tutti i trend del 2016 e li abbiamo azzeccati, quindi ci prepariamo poi per quelli del 2017. Grazie, buon Natale a Giulia Crivelli. Buona vigilia, buon Natale, buon anno, buon tutto a tutti. Noi non ci salutiamo qui perché abbiamo ancora la prossima ora, che sarà quella di RadioTube.